penso che l'acqua non dovrebbe avere l'amaronio, perché l'acqua è in sapore e in odore, io ho sempre saputo lui. Ma la Sant'Anna non è così, la Sant'Anna ce l'ha un leggerissimo amarogno, lo ce l'ha, e si sente, soprattutto perché non è abituato, magari se uno poi è abituato, ma nemmeno se ne accorge, però c'è, si sente, altro che, soprattutto l'estate se non è fresca, quando è, diciamo, a temperatura così naturale, se è fresca magari si sente di meno, però quando è calda, per così dire, tra virgolette calda, non voglio dire, la temperatura d'estate si sente un po' di più, purtroppo è così già, d'altronde, cosa ci vuoi fare, ma comunque. Mentre invece per cucinare compriamo quella quercetta, qui all'AMD, dietro casa, a 17 centesimi, costa 17 centesimi da 2 litri. E quella la usiamo per cucinare, poi naturalmente non facciamo sia per cucinare, per il caffè, per tutte queste cose qua, insomma, ecco. E anche io faccio qui, dalla boschetta la quercetta. Quando non c'è quercetta, allora prendiamo altula, va bene lo stesso, però quercetta costa di meno, viene considerato che serve per cucinare la pasta, e allora quando c'è quella, io faccio sempre un carico, faccio, ne prendo sempre almeno 6-7 confezioni, li metto nel portabagagli, me li porto a casa e mi sembra che 5 confezioni, mi sembra che pago nemmeno 5 euro, una cosa del genere, dai, per cucinare, quella è l'acqua per cucinare, mentre invece l'acqua panna, quella già costa di più, mi sembra che costa 3,40, se ricordo bene, a confezione, se non me lo ricordo, ma mi sembra che è così. Perché l'acqua del pozzo? L'acqua del pozzo, certo, se le analisi sono buone va benissimo, non c'è problema, ci mancherebbe altro. E risparmi anche. Ciao Claudio. Ciao Giulio, ciao di nuovo, già. No, io uso l'acqua del pozzo, non uso acqua di rete, ce l'ho ma non uso. Non li uso mai, io sono collegato al mio pozzo. Analisi, sì. La posso anche bere, è che non si è abituato, capito? Però le analisi sono una norma proprio perfetta. Non è salmata, non è calcaria, niente, batteri, zero, fatta controllare anche da poco. È venuto un amico a bere una birra, un ex collega lì che lavora a Trunco Reale, me l'ha controllata. Gappa, gappa, e allora cosa siete facendo? Calamizzando, ma cos'è collegato? L'acqua del pozzo, al rubinetto di casa, oppure devi andare a tirare il secchio? Ma quel pozzo, adesso già mi siamo al 2021, c'è l'autoclave, c'è il motore nel pozzo, sono 80-85 metri, c'è l'autoclave che manda la cisterna manda dentro casa, c'è una cisterna da 5.000 litri, penso che battiano, non mi manca mai le mamme, non ve ne è problema. Vabbè certo, quando c'è l'acqua, già va bene, dai, stavo scherzando. Va bene, lo so che così, noia. Però vabbè, c'è tutta questa comodità, non di dire, noia. In campagna già si sta bene, dai, a me c'è un po' di pace, non sa se più muri, cose. Anzi c'è questo di sopra, ragazzi, dico io, cosa dico, c'è alcuni pezzini sotto i muri. Trascina a tavolo, poi non è che rialza, lui trascina mattina, sera, sempre trascina di roba. Io non so cosa cazzo fare. Il problema dell'economia è quello, no, già, pace e risurrezione. Mi ero seduto in veranda, fumo la mia sigaretta, mi ho bevuto una birrettina che non è bevo, però è una ciossetta, adesso mi ha fatto una in birra, me l'ho bevuta, ho mangiato due noccioline, ero lì seduto, e te c'era chi c'è in radio, ho sentito voi, sono entrati, salutati. Pace anche troppa, guarda. Passa il tempo, Marco, te ne accorgi, sto sempre facendo vermicelli, bembi, pulendo, facendo, adesso mi domani mattina con mio vicino ci puliamo tutta la strada, l'ingresso sono una cinquantina di metri, capito? Una parte, una parte, c'è l'erba, una parte, quando uno è a casa sua ed è indipendente, come sei tu o come sono io, per dire, siamo tranquilli, no, non c'è problema, non devi dare conto a nessuno, intendo per il condominio, eccetera. Quando ne hai voglia le fai, quando non ne hai voglia non le fai. Se te la vuoi tenere bene, te la tieni bene, la casa, se te la vuoi tenere male, te la tieni male. Nessuno ti può dire niente. A differenza di magari quando sei in un condominio e se hai il cane ti si lamentano e se, ecco, come sta dicendo Gianni, c'è quello che ti trascina le sedie o i mobili sopra la testa, anche alle 10 di notte o a mezzanotte, come succede a casa di mio fratello, per dire, che abita al penultimo piano e c'è questa famiglia su che aveva la notte, si alzava durante la notte, magari forse per andare in bagno, che ne so, alle 2 del mattino, e questa deficiente di ragazza con gli zuccoli di legno, voglio vedere, ma li ha messi a piombo, mio fratello li ha messi a piombo quella gente lì. Adesso sembra che si siano calmate e hanno capito che si devono comportare in maniera civile. Già, non ti lamentare, c'è di peggio, guarda, della vita, vai già. No, non è che mi lamento, ma io cerco sempre di fare tutto quando mi sto fare così. Anche loro dovrò fare così, io sotto tutte le sedie, a parte che le altre le sedie non le trascino. E dopo c'ho il film qui, mi metto il film qui e fanno un favore. Se tutto ci sono delle accortezze che non costano nulla, non disturbi le persone. In effetti è così che deve essere. Una persona che si comporta bene adotta tutti questi sistemi, certo. Purtroppo non siamo tutti uguali e si sa, nella vita ci sono sempre le persone maleducate o incivili, poi definiscilo tu, questo tipo di persone, non lo so. Comunque così, avanti, Claudio. Vabbè, i civili ci sono tutte le parti. Io prima di spostarmi ero un bel po' di anni che venivo qua e stavo sempre bene, poi alla fine abbiamo deciso finalmente, adesso sono veramente rinato un vicino di casa, anzi ne ho due, uno un po' più distante, ma proprio quello che ha attaccato a me è una persona che la verità non mi fa mancare niente. Guarda, ti dico che mi ha spronato lui a mettere l'antenna, mi ha spronato lui perché l'ha vista intera, gli ho detto ma chi c'è l'antenna che non l'abbiassi? No, ne ho voglia, amico, io ho il piatto, ti ho una mano io, se no guarda, ma che antenna l'ha messo, figurati. Proprio veramente sto bene. Ok, dai, ci sentiamo dopo se ci siete, che ho sentito rumore fuori, sicuramente è arrivata la mia figlia che era al lavoro. Già rientro dopo, riprendi già. E già, ci sentiamo qua. Apri. E avanti. Ok, ciao Claudio, a dopo allora, se coincide ancora. Sì, ma è così, o Gianni. Ma lo stesso problema tuo ce l'ha la madre di mio genero, che abita proprio lì, dove abitava prima Claudio, il palazzo di fianco. E c'è questa famiglia sotto che fanno sempre come stai dicendo tu, trascinando rumori dappertutto, a tutte le ore, di giorno e di notte. Infatti stanno pensando di vendersi la casa proprio per andarsene in una casa indipendente, comprarsene una indipendente, senza condomini, senza niente. No, non è possibile, no. Alle volte no. Non si può convivere quando si trovano certe persone. Ma vai tu e faglielo capire. Per farglielo capire devi bisticciare. E bisticciare in un condominio non è bello. Perché cosa vuoi? Quando tu incroci salendo nelle scale, non è che uno non deve salutare l'altro. Sarebbe una cosa assurda. Purtroppo succedono queste cose e si va avanti lì lo stesso, guardandosi in cagnesco. Avanti già. Vabbè, sì, quando scoppia la missa, no, ma io non sono tipo che mi attacco con nessuno, io vivo la ciurma, però stiamo a guardare qui. Stavano trascinando sì. sedie e tavole, cosa cazzo fanno ancora loro, non capisco. Trascinando tavole, sedie, ma bro. Quando non si mette in contratto, dalle 3 di sera, andrà a parare. Quelli ci sono. Quelli ci sono sempre, sempre quello qui di fianco, la famiglia che abita qui di fianco a me, abita 20 anni quasi, ed è 20 anni che sta sempre trapanandosi le cervella, figurati, lui, vabbè, comunque, fortunatamente non sono sopra di noi, io sopra di noi non c'è nessuno, sono indipendente, però anche se è di fianco e si mette a trapanare lo sente lo stesso, non è che lo sente lo stesso, però cosa gli vuoi dire? Dice che sta facendo lavori, dice che sta sempre aggiustando, ma è accidenti ai lavori, ma quando mai in una casa costruita da appena 20 anni e tu stai sempre facendo lavori per 20 anni di seguito, ma tu sei un deficiente, un disgraziato e basta, perché è una persona assolutamente indescrivibile, solo un imbecillotto può fare certe cose, o è malato questo, che ne so, purtroppo è così, già ci sono queste persone così. Sì, ma l'altro giorno noi stavamo riposando con tanto. E praticamente questo tu si è messo a trapparare alle 3. Alle 3 si sa che un'ora che ti riposa, se ti riposa, poi c'è sempre questa abitudine che non ti pranzo, bisogna che lo faccio. Beh, ha cominciato a trapparare questo qui, non la finiva più, detto, magari deve fare un buco, non la finiva più, trappare la fila di questa, trappare c'è di un capo. Hai fatto bene. Gente maleducata, cosa? E vabbè, magari quello ha lavorato quel giorno e basta. Ma questa addirittura, ti sto parlando di 20 anni, non sto parlando di un giorno. Ogni tanto lo vedi portando materiale nuovo. Boh, cosa maledizione che discenda in testa si sta facendo, vuole sapere, in questa casa. La casa è costruita 20 anni, tra l'altro. Non lo so io se una casa costruita da 20 anni abbia bisogno di tutta questa manutenzione, non credo proprio, so che è pazzo, magari ha smantellato intonaco, ha smantellato pavimenti, che ne so, boh. So solo che ogni tanto si tira la testa al muro, si tira, o addirittura anche con quella fare a martelletto, come si chiama, quel demolitore, boh. Non lo so già. Cosa che vuoi dire, mai sveglia e mai zannucci. Fortunatamente la notte già era tranquilla, già si sta bene. Solo l'antenna mi dava fastidio la notte quando c'era vento già che fischiava, infatti me l'ho tolta per quello, la vado a tubo. Io non mi sono mai accorto, forse se ne accorgeva quelli che abitano in Monsanto, ma non mi hanno mai detto nulla, nell'attico c'è abita gente, quindi non mi hanno mai detto nulla che fischiava. Può darsi che l'ha messa che batteva il vento brutto in quel punto lì, che c'era il passaggio del vento brutto. Perché così non si spiega, perché casa fiscale così. Comunque quelli dell'Africa non mi hanno mandato con le scarpe, dall'Africa abitano avvocato, gente per bere, gente che quello si vede, si saluta, si ferma a mangiare, la verità, gente, io li ho visti, anche se ho l'avvocato e poi li ho visti. Si è sempre comportato bene la vita, non ha mai avuto nessuna vita. Purtroppo ci sono anche quelli che purtroppo non si comportano bene. C'è sempre la pecora nera che ho condominio, perché ce n'è uno solo che non si comporta bene, non paga condominio e fa quello che vuole. Se lui si lamenta qualche giorno perché cantiamo a casa, dico prima paghi i subiti di pagare, dopo i figura. Certamente sì, purtroppo è così, già ci sono queste persone. La pecora nera in un condominio la trovi sempre, c'è sempre, no? Non si può dire di no. Ma l'unica cosa che posso garantire è che è essere indipendenti. Per quanto riguarda la casa, essere indipendenti, guarda, è fondamentale, è una cosa straordinaria, veramente. A parte il fatto che non devi pagare il condominio. E poi non hai niente da spartire con nessuno, le tue idee sono le tue, te le tieni tu e ti gestisci la casa come ti pare piace a te, non devi rendere conto a nessuno di niente. tutte e due, va bene così. Se devi mettere un chiodo lo stai mettendo perché se ti piace mettere il chiodo, se lo devi togliere il chiodo tu lo stai togliendo perché ti piace toglierlo. Mentre invece quando sei in condominio ci sono delle regole da rispettare, ed è anche giusto che si rispettino, però hai sempre un limite di libertà, ecco, hai la libertà limitata, non c'è niente da fare già. Vai. Ma tu lo sai che nelle case in condominio non puoi fare manco un bonifico per legge, perché quello lì è un abuso edilizio. Se tu fai, per dire, togli un muro e ingrandisci, per dire, la cucina e restringi la sala che è troppo grande, non lo puoi fare. Beh, certo che sì, lo puoi fare, no, ma quello anche quando la casa è di tua proprietà, se devi fare una modifica, come regola ci vuole sempre il progetto, e questo io lo so, perché queste cose, beh, è il lavoro anche di mia figlia, per cui anche se devi spostare una porta, tanto per tu, nessuno lo fa, sia ben chiaro, nessuno chiede il permesso, però anche se devi spostare una porta, come regola devi presentare un progettino in comune per darti l'approvazione a spostare la porta, dico la porta o la finestra o qualsiasi altra cosa, purtroppo è così, e questo è legge, perché è anche il lavoro di mia figlia, per dirti no, mentre invece quando sei da solo nessuno ti dice niente, la porta te la vuoi spostare, spostatela, chi se ne frega, e così si va avanti già. Vabbè. Io ho una modifica, l'ho fatta per il doppio servizio, perché c'era la porta di entrata e poi c'era una bambina per lavarsi con lo specchio e tutto quanto, poi c'era un'altra porta che ci portava dove c'era il bagno e ho detto sì, ho butto giù questa porta e questo pezzo di muro lascio solo la parte, diciamo, che fa da muro maestro, e butto giù la parte mancata lì e via, e così ho fatto, l'ho modificata, entra un po' di più, c'è stata la porta di entrata al centro, non le faccio più la porta. Beh certo, se ti ha fatto comodo fare così, hai fatto bene a farlo, certo, e poi dentro casa, anche se sei in condominio, cosa ti interessa, tu non dici niente a nessuno e il lavoro te lo fai lo stesso, molto ci vuole. Se poi ti chiedono, dice, mi si è rotto, che so io, l'impianto dell'acqua, me la sto rifacendo, basta. E invece magari tu ci sei spostato la porta. Dico, così no, per trovare sempre una scusa. Non è che non devi tenere conto a nessuno di quello che fai, assolutamente no. È così, purtroppo è così, cosa ci vuoi fare? La vita è bella se non ci fossero stati questi contrattempi e soprattutto contratti da parte di tante persone che si vogliono fare i fatti degli altri. Mentre invece quando sei indipendente, tranquillo, pacifico, cosa c'è da imbiancare? Adesso me lo imbianco quando mi pare mi piace. Parla ad esempio delle scale o qualsiasi altro lavoro. Cosa c'è da cambiare le lampadine delle scale? Le cambio quando fa comodo a me. Invece se sei in condominio, sai come cominciano anche per una lampadina, perché fare bene prima, proprio quello che si lamenta fare bene prima, va la compra la lampadina la sostituisce. È finito lì. Invece no, ne fanno una tragedia, per carità già. Allora, qualcuno l'altro giorno ha rotto la chiave nella serratura. E praticamente di notte sono andato ad aprire e non riuscivo a entrare la chiave. Poi mi sono accorto cos'era, sono entrato al portoncino di dietro, sono salito a casa, ho preso il cacciavite, sono montato la serratura, gli ho dato due colpi in terra, ho preso la pinta, l'ho portata fuori, la chiave che c'era rotta. E per tutto è uscita la due colpi, così se è uscita fuori. L'ho ripiantata, abbiamo messo un po' di cibo in cibo, però una volta non ci ha preso la briga di dire ho rotto la chiave e qualcuno se non sa fare il cibo in cibo a me, lo facevo io, ho sempre fatto questa la briga che la facevo. E ho fatto cosa la serratura e l'ho cambiata. lui invece non sapeva mica almeno di interessarsi, mi ci ha dato la chiave, aspetta che faccio prendere provvedimenti, perché quando uno deve andare che trova la chiave spezzata dentro non può entrare la chiave buona per poterla. Purtroppo è così già, ma non tutti sono così, non tutti sono corretti nella vita, ci sono le persone scorrette per cui lo sappiamo che succede così. Il condominio è una brutta gatta da pelare, guarda, non ti credere che tutti i condomini, anche nelle migliori famiglie, per così dire, nei migliori condomini, anche lì c'è malumore, c'è sempre qualcuno che ha da dire qualcosa, sempre. È quello che sale le scale correndo e ci sono i bambini che salgono giocando nelle scale, fanno chiasso, oppure salgono nell'ascensore e fanno occhio quell'altro che scrive nell'ascensore. Sono tutte storie che vengono fuori, lo sappiamo benissimo, purtroppo è così. Ripeto, il condominio è sempre, c'è sempre da discutere, mentre invece quando sei indipendente nessuno ti può dire niente. Al massimo puoi fare osservazione a un tuo figlio o a tua figlia se hanno fatto qualcosa che a te ti è sembrato sbagliato. Tutto lì, odio. Però già ci sono i tuoi incontri, perché ti si è rotto un autoclave, ci devi pensare da solo, invece il condominio la dipendo con persone, che ho anche sì da pagare. Sono anche quelle cose lì, per dire. La devo subire, decido di fare un lavoro che è diviso tra tanti, non persona sola. Lo dicevo che è una decisione di chi vuole andare a. Sono in tuoi incontro là. Beh, diciamo che la convivenza sicuramente è bella, non ci sono dubbi, però convivenza ne è anche di fianco, non è che ce ne deve avere solo sulla testa, no? per avere amicizie o eventuali aiuti eccetera eccetera, ci sono quelle che abitano di fianco, non c'è bisogno che siano proprio appartenenti al tuo stesso condominio, perché uno se è una persona educata, se è una persona tranquilla, fa amicizia anche con la gente del vicinato, no? E in caso di necessità, se tu chiedi, quando uno si è comportato bene, un aiuto lo ottiene sempre. Al limite, se proprio uno ha bisogno di aiuti, sia parenti, chiama il parente ed è diverso ancora. Anzi, però anche lì alle volte ci possono essere, magari chiama un fratello, e poi per me chiama, che noi andiamo ad un altro, per dire no. Succede così anche queste cose, già, è meglio sempre non avere mai bisogno di nessuno. L'unica soluzione è sapersi difendere sempre con le proprie capacità e soprattutto con le proprie forze. Quella è la cosa migliore in assoluto già. Sì, quando ce ne hai, sì, io sono sempre stato del tuo parere. Sì, quando hai le forze, ma quando a volte non ce la fai, io adesso per dire, sono di nuovo col piede così e la gamba tutta gonfia, non sto bene. Diciamo che con le mie forze non ce la faccio. Infatti facendo la mia compagna a portare in casa, perché non ce la faccio. Vabbè, quasi sì, quelli sono altri problemi ancora più gravi, questo sì, senza dubbio. Ovviamente queste cose, però lo sappiamo benissimo che nonostante che magari una persona possa essere anche corretta, non tutti sono disponibili, lo sappiamo. Certo, fa comodo, anzi ci si dovrebbe sempre aiutare, e questa è nella logica dell'umanità, ci dovrebbe essere sempre un favore che va e l'altro che viene fra persone, mentre invece non è sempre così, non è sempre così per vari motivi, o per gelosia, o perché non sei interessato a dare una mano a un'altra persona, o insomma per un qualunque motivo, o per una chiacchiera che è nata nel corso del tempo, eccetera eccetera. Insomma, c'è sempre qualche cosa che ti impedisce magari di avere, di portare avanti un rapporto magari tranquillo e sereno eccetera. È per quello che dico, è meglio non avere mai bisogno di nessuno. Poi nel tuo caso è un altro discorso, purtroppo quello lo, anche uno di vicino non è che ti può aiutare più di tanto, eh. Adesso tipo c'è i parenti. Infatti sto qui strutturato, sto già prendendo l'antibiotico. Speriamo che mi faccia bene. Beh certo, perché non ti deve far bene, te lo credo. Prima o poi risolverai anche questo problema, certo. Certo che sì. Va bene, dai. Comunque. Questo baracchino sta andando bene. Perciò tu non mi hai detto niente, vuol dire che va bene. E sono contento così. Altrettanto stai andando bene tu, 9+15 pieno. È la radio ultima. Va benissimo. Vai. Giulio, che cosa stai usando adesso? Sto usando l'Alan 44 della CTE, Alan Midland 44, un vecchio baracchino, un vecchissimo baracchino della CTE, fu costruito dalla CTE. Ah, ma ti è arrivato l'altro ancora? Sì, non sei a posto, alla grande, un bel lavoro fatto, tutto in ordine, perfetto, tranquillo. Tranquillo al 100% già, no, non c'è problema. Grande lavoro, grande impegno da parte di Claudio, che io l'ho ringraziato, lo ringrazio ancora, e mi ha dato una grossa mano perché ha pensato tutto lui. Io sono messo in soldi e basta già, tutto il resto ha pensato tutto lui, ad imballare, a spedire, ad interessarsi, e tutte queste cose qua, addirittura me l'ha portato anche a casa. Ecco, questo significa amicizia, no, non c'è che dire, per cui bisogna essere riconoscenti, quando uno si tratta bene, altrettanto deve trattare bene. Avanti già. E poi già diciamo dei buoni rapporti con lui, l'aveva già appurato che era una persona seria e brava anche nel stato di apparire. Quindi ha fatto bene che ci ha consigliato questo. E certo che sì. E poi la cosa anche molto importante, forse anche la più importante, che ho pagato una miseria. Ho pagato una miseria per una riparazione del genere, per cui va benissimo così. Molto molto bene. No, il lavoro ho fatto un gran lavoro, no, non ci sono dubbi. E devo dire che tutti mi hanno detto che esce bene, per cui no, non c'è problema. Va bene già. Riprendi. Va bene. E le persone se sono oneste fanno su, perché quando vedono che lavorano bene non ti prendono per il collo, facendo i lavori, la gente si avvicina di più a fare, no? Come il mio veterinario, a volte vado, mi dice al cane, mi fa pagare niente, mi dice va bene, la prossima volta non si più. Per dire, no? Invece quello di via Pascoli ogni volta che andavo lo facevo pagare 80 euro, ma siamo scherzati. Purtroppo è così, non tutti siamo uguali, ripeto ancora una volta. La vita è così, cosa ci vuoi fare? Questo non ci sono dubbi. No, questo io sono contento perché mi ha fatto un buon lavoro, ha fatto, devo dire. Poi naturalmente sono consapevole che è sempre un apparecchio vecchio, è già, sia ben chiaro. Però per il lavoro che ha fatto me l'ha riportato praticamente in maniera esemplare, va benissimo. Poi si può guardare anche domani, tanto per fare un esempio, no? Però il lavoro che ha fatto l'ha eseguito bene, devo dire che è stata un'ultima mossa e un ultimo consiglio da parte di Claudio, averlo spedito, o meglio lui l'ha spedito a quella persona, che quella persona, devo dire, ha lavorato bene. Tutto lì, Gianni. Vabbè. Meglio che sia così, dai, che sia stato soddisfatto. E invece c'è questo alimentatore da 50 ampere, lo porto ad aggiustare, ma non c'è stato verso lui. Non sono riuscito a aggiustarlo. Se ne va in protezione, di colpo. Purtroppo fa il difetto quando lo carichi, capito? Cioè praticamente tu lo lasci acceso così e non ti fa niente, altrimenti fare il da 100 watt e sta tutta la mattina acceso e poi il difetto te lo fanno, capito? No? L'elettronica è una cosa molto ma molto difficile da comprendere già, e alle volte riparazioni diventano anche impossibili, eh? Purtroppo è così, ci vuole anche una certa fortuna che magari la riparazione sia sempre riparabile, però in certi casi evidentemente chi te l'ha fatto non ha trovato il difetto giusto e allora ti fa sempre quel difetto lì, e cosa ci vuoi fare? Purtroppo è così, cosa vuoi? Boh. È così e basta, non lo puoi cambiare, si sa, le apparecchiature elettroniche ti comportano mille problemi, finché vanno bene, basta, una volta che si guastano, se un guasto un po' difficile e complicato, secondo il tipo del componente che ci vuole, o non si trova, oppure se lo sostituisci perché l'hai trovato, magari non è adatto, insomma sono mille problemi. Sempre si spera di avere fortuna e di riuscire a riparare quando uno ha bisogno di fare qualche riparazione. Vabbè, beh, comunque. Perché non esce bene questo di radio, questo baracchino? Tu cosa dici? Sì, è normale, ma va benissimo. Si sente bene, ma sta presente la radio. E così, se ti fa praticamente, se tu lo misuri con gli strumenti, non ti dà nessun difetto, poi lo lasci accendere e ti fai troppo. Non si capisce cosa sia. Lo so, purtroppo è quello, il problema è proprio quello. Il problema è proprio quello. Riuscire ad indovinare qual è il componente che se ne va in una avaria, è quello. Perché magari è caldo, fa quel difetto. Appena lo accendi, essendo ancora freddo, ti funziona perfettamente. Però dopo un po', quando appena comincia a saldare, o perché l'attenzione che gli arriva a quel componente non è la sua, magari è stata alterata o addirittura abbassata, e chi lo sa, succede anche ai migliori radiotecnici di uscire fuori di testa per fare stesse riparazioni. E se sapessi quante volte io sono anche riparando televisori eccetera, il laboratorio funzionante magari una settimana in prova va benissimo, lo porta a casa del cliente, accendi e ti fa difetto. E questo è successo alcune volte anche alla buon'anima di Emanuele, quando era lì vicino a me nella stessa strada. Infatti lui si incavolava, porca miseria, dice, l'ho collaborato per una settimana intera questo televisore, lo porto dal cliente e mi fa fare brutte figure. Succede già, succede, purtroppo le apparecchiature quando cominciano a invecchiare possono creare anche questi problemi qua. Ma il fatto che non è vecchio, è l'ultimo alimentatore che ho comprato, no. Solo che da quando io l'ho comprato, ma non tanto che trovo in protezione, l'avevo detto a un amico che aveva detto, no, quello che c'è in protezione c'è tu di gacini, gli apparini, ci si dà prima e poi ci si dà apparini, tu prova a spegnere tutti, lo accendi e poi accendi gli apparini, e allora così non è. Infatti facendo così non lo faccio. Purtroppo è così, vai tu e scopri, alle volte ci vogliono anche strumenti proprio sofisticatissimi e che non tutti i radiotecnici hanno, magari ci vuole lì uno strumento di misurazione che ti rivelerebbe subito qual è il problema, qual è il guaio, il danno, mentre invece hai altri strumenti e che non riescono a segnalarti il guasto. Purtroppo è così, non c'è da meravigliarsi, già lo so perché anch'io ho lavorato a fianco a dei radiotecnici quando ero ragazzo, quando ero giovane, e so che queste cose succedono altro che se succedono alla grande anche. Va bene, riprendi. Ma che ore sono? Le 8? Sì, le 8 precise in questo momento, le 8 e un minuto anche. E allora dai, ti lascio che lo faccio in due camera. Provo piano, faccio due passi almeno, di questo vicino da luci, per carica da me, di luci. Ehi, a te, sono un anno e mezzo io in casa, esco solo in caso di strettissima necessità, solo ieri che mi sono fatto che sono andato e tornato, poi sono salito anche su alla Madonnina, alle Mara e tutte queste cose qua, insomma è stata una bella, una lunga passeggiata. Ma poi dai, già, allora vai a portare caldo, dai, ci sentiamo eventualmente domani se coincide. Grazie per la chiacchieratina e stasera siamo entrati solo io, tu e Natalino. Un attimo anche Claudio per i saluti e Ciccio. Io ascolto Finalino e dopodiché chiudo. Intanto ti saluto nuovamente, ciao a te, ciao a Natalino, stai ascoltando, e ciao Claudio, c'è ancora l'ascolto.